24 mattino di Alessandro Milan. Ce la facciamo alle 7:33 minuti, eccoci cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Oggi nel nostro sondaggio delle 8:30 parleremo di uno degli effetti della manovra che abbiamo scoperto potrebbe riservare una sorpresa per gli italiani, soprattutto a partire da luglio: l'aumento delle autostrade, dei pedaggi autostradali. Può darsi che si possa pagare anche la Salerno-Reggio Calabria, un tormentone da decenni. Che ne pensate? Siete d'accordo? Bisognerebbe far pagare anche la Salerno-Reggio Calabria, che è un'autostrada, in realtà non è, per qualcuno è un'odissea più che un'autostrada. Votate su radio24.it nell'home page bianco o nero e poi ne parleremo alle 8:30. E ora la lettura dei giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In primo piano. Lunedì 31 giugno, lunedì 31 maggio. Mi volevo portare avanti un po' per avvicinare le vacanze. Lunedì 31 maggio e allora è la manovra sempre che tiene banco. Il governo corregge, Napolitano firma, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Manovra, le correzioni del Colle per Repubblica. Anche la Stampa, pronta la manovra dopo i chiarimenti chiesti da Napolitano. Il Messaggero, stop del Colle, corretta la manovra. Per il giornale, Napolitano non firma i tagli. Mentre il Sole 24 Ore del lunedì, all'apertura, in 3 anni via 400.000 statali sono gli effetti della manovra. L'Unità invece, fermiamoli, punta sulla legge, sulle intercettazioni da oggi in arrivo all'Aula del Senato. Allora, la manovra, il balletto della manovra, questo in primo piano sui giornali, vale a dire il fatto che il Quirinale ha chiesto delle modifiche, il testo è stato corretto, è stato poi rimandato al Quirinale, oggi ci dovrebbe essere la firma definitiva. Insomma, c'è anche un Berlusconi, secondo il Corriere, a pagina 5, un po' spazientito. Bastava un pizzico di attenzione, si poteva evitare, bastava un pizzico di attenzione in più. Questo nel retroscena di Marco Galluzzo, un Berlusconi ieri in Sardegna che sostanzialmente ha fatto capire: si poteva evitare questo balletto, queste tensioni. Addirittura per Repubblica, pagina 3, con il Quirinale tratta Gianni Letta, Tremonti isolato resta a bordo campo. Nel retroscena di Carmelo Lopapa ci sarebbe stato un intervento, una ira vera e propria di Berlusconi, che ha detto: ora tratta Gianni Letta direttamente col Quirinale. I contatti col Colle sono tenuti in queste ore dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. In questo comunicato ufficiale di Palazzo Chigi sarebbe stato, secondo Repubblica, un tentativo proprio di esautorazione del ministro dell'economia Tremonti, finora regista unico della manovra da quasi 25 miliardi. Qual è il punto che fa abbastanza discutere, il punto politico che sta facendo discutere in questi giorni? Sono i tagli. I tagli agli enti, soprattutto agli enti culturali, alle fondazioni del mondo della cultura, che fanno anche dire al ministro della cultura Sandro Bondi: mi hanno esautorato. Io solo, in un mondo di sinistra, il governo doveva sostenermi, così il ministro Bondi, in una chiacchierata con Paolo Conti, non è una vera e propria intervista, ma qualche virgolettato. Bondi dice: la mia amarezza nasce dal fatto che dal punto di vista politico io condivido appieno la manovra di Tremonti, ma sono stato esautorato. Tolti fondi a istituzioni illustri come la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma, l'Istituto Sturzo, la Fondazione De Gasperi, persino al Centro Sperimentale di Cinematografia, al Vittoriale degli Italiani. Non intendo polemizzare, dice Tremonti, Bondi, non è il mio stile, ma dico: abbiamo deciso di tagliare del 10% le spese del Ministero? Occorre condivisione. Chiudere la Triennale? Su via, dice Bondi. E sulla domanda poi ha sentito Berlusconi: non ho abitudine di chiamarlo in momenti come questi. Tremonti non l'ho sentito nemmeno lui. Napolitano assolutamente no. E insomma è un Bondi però che appunto dice: sono stato esautorato, c'è il mondo della cultura in subbuglio. Il direttore per esempio della Quadriennale di Roma, Gino Agnese, a Repubblica dice: non ci ha distrutto nemmeno la guerra, siamo sopravvissuti ai bombardamenti del 43, ora io sono pronto anche a lavorare gratis, rinuncio al mio stipendio, non possiamo però lasciar morire un'istituzione come la Quadriennale d'Arte di Roma. non costa milioni, non possiamo assimilarci ad altri istituti statali, abbiamo invece un valore certificato di vari milioni di euro, non possiamo scomparire così. Anche la stampa mette a cura di Alberto Mattioli a pagina 9 che cosa? Tutto l'elenco dei 232 istituti ed enti culturali elencati nella manovra che dovrebbero scomparire, dicendo ci sono effettivamente degli istituti che lasciano un po' perplessi, come l'Associazione dei Volontari Antifascisti di Spagna, oppure il Comitato per celebrare i 550 anni della nascita di Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio. Per carità, grandissimo pittore, ma perché mai celebrare 550 anni? Oppure l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania. E ci si chiede, è cultura o coltura? Però chiaramente in questo, quando si fa una lista e quando si fa un elenco di 232 istituti, il rischio è che siano finiti in questa mannaia per eliminare anche enti che hanno invece magari un costo minore e hanno invece un rilievo culturale importante. Per esempio l'Unità, pagina 14 e 15, racconta la storia di Via Tasso, il museo di Via Tasso, dove tra il 43 e il 44 le SS torturarono 2000 cittadini. Lì ci sono ancora i graffiti che custodiscono il ricordo della resistenza romana e che riceverebbe 50.000 euro, non una cifra mastodontica, ma 50.000 euro dallo Stato, senza i quali però rischia di chiudere. Via Tasso, ente inutile, tra virgolette, per la manovra, il Museo della Memoria che Tremonti condanna. E in questo caso, per esempio, la Regione Lazio, il Comune, la Provincia di Roma si sono impegnate a dire questi 50.000 euro li tiriamo fuori noi. Interessante però a questo proposito il ministro Roberto Calderoli, pagina 2 del Corriere della Sera, fa un'intervista molto diretta. Ci sono troppi istituti arroganti e diremmo chi sono i loro padrini. Parla proprio di questi tagli. Abbiamo chiesto un anno fa, dice Calderoli, di documentare tutti questi enti, la propria attività e fornire i bilanci. La faccio ridere. Abbiamo mandato le lettere anche all'Agenzia delle Entrate o al Ministero del Tesoro, che magari avevano ragione di stupirsi. Il punto è che ci sono finanziamenti inseriti in oscuri allegati che si protraggono da decenni, nei quali bisogna fare ordine. Ebbene, molti di questi enti non ci hanno neppure risposto. Lo hanno fatto circa 2 enti su 3, ma gli altri se ne sono fregati. Un'arroganza scandalosa, un senso di onnipotenza figlio di un retropensiero. A che serve rispondere? Tanto abbiamo un padrino che ci difende. Ma hanno fatto male i loro conti. E infatti, quando ha cominciato a profilarsi la mala parata, ci sono arrivate alcune dichiarazioni, diciamo così, ritardatarie. Insomma, Calderoli dice, avevamo chiesto a tutti questi enti un anno fa di documentare che cosa facevano. Non ci ha risposto quasi nessuno. O meglio, 2 su 3 non hanno risposto. Al che Marco Cremonesi dice, ma che fate Calderoli, minacciate, cos'è una minaccia, vi tagliamo perché non rispondete? Voglio ricordare che io e il ministro Brunetta abbiamo tutte le richieste di salvezza arrivate da enti inutili che ci sono arrivate nel corso del tempo. Se sarà necessario pubblicheremo a doppia firma la lista di questi enti con a fianco il nome del rispettivo padrino. E poi Calderoli dice, guardi, in realtà abbiamo soppresso 24 enti accorpando le funzioni dei rispettivi ministeri. Abbiamo tagliato i finanziamenti ad altri 232 enti, appunto questa lista. Quindi 24 cancellati, 232 tolti i finanziamenti, anche se per alcuni togliere il finanziamento statale vuol dire portarli alla chiusura. Non sarete stati troppo brutali? Guardi che l'elenco di questi soggetti è da barzellettiere in molti casi. Non c'è imperatore vicino o lontano che non abbia il suo ente che ne tutela la memoria. Non c'è fatto storico lieto o funesto che non abbia intitolata la sua brava associazione. Non si può più di questa situazione. È una cosa che tutti devono capire. Per esempio, ho scoperto che la povera Renata Polverini, presidente del Lazio, ha un appalto per la manutenzione delle assi dei water delle sedi regionali da 750.000 euro l'anno, 2.000 euro al giorno. Insomma, un Calderoli che per nulla intimorito dice andiamo avanti. E Tremonte fa un'intervista ad Aldo Cazzullo a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera, una di quelle interviste in cui Tremonti parla molto di globalizzazione, di finanza globale, di filosofia oltre che di economia. Sono due lunghe, intense pagine, traggo solo alcune risposte, quelle più pratiche, diciamo, sull'aspetto anche politico, i rapporti con Berlusconi. Ho giurato fedeltà alla Repubblica nel governo Berlusconi e per me la fedeltà è un valore insieme morale e politico. Politico perché morale e morale perché politico. Poi sull'Italia. Le pare che possa avere uno sviluppo forte un paese che su 58 milioni di abitanti ha 2 milioni e 700 mila invalidi che assorbono ogni anno da soli un punto di prodotto interno lordo? O che ha un'evasione fiscale colossale che dell'economia alimenta magari il presente attraverso il nero ma non il futuro, sottraendo risorse per ricerca, università, eccetera? E ancora sulla burocrazia, nel Medioevo tutta l'economia era bloccata da dazi, pedaggi d'ingresso ed uscita alle porte delle città, nei porti, sui valichi. Come il Medioevo era bloccato e fu superato da un colpo di illuminismo, così il territorio attuale è popolato da un'infinità di totem giuridici o democratici, per cui un consiglio di quartiere blocca un comune blocca una provincia blocca una regione blocca lo Stato e i verdi e i ricorsi al TAR bloccano tutto. Tremonti dunque dice basta la burocrazia. E infine sulle liberalizzazioni di Bersani, le lenzuolate di Bersani ci sono ancora, ma nella loro generosa intenzione sono servite a poco, perché erano disegnate all'interno del sistema. Nessuna persona normale ci capisce nulla, dice Tremonti. Figurarsi che messaggio passa dai geroglifici della Gazzetta Ufficiale a un artigiano nel suo laboratorio, a un giovane che vuole aprire una pizzeria. Insomma, Tremonti dice queste sono gli elementi della manovra, una manovra per la stabilità, e sono fedele al governo Berlusconi. È intervistato da Aldo Cazzullo a pagina 8 e 9 del Corriere. Dall'altra parte La Stampa intervista invece Vincenzo Visco, che già era stato intervistato dal Corriere poche battute all'indomani della manovra che si cominciava a profilare. Ora Visco fa un'intervista più ampia ad Antonella Rampino. Il testo Tremonti dà ragione a Prodi. È un Visco molto critico, dice il nostro elettorato è stato colpito perché è una manovra squilibrata, tutta sulle spalle degli enti locali, del pubblico impiego. Critica anche sulla tracciabilità dei pagamenti, che è stata abbassata da 12.000 a 5.000 euro, da 12.500 a 5.000 euro. Sopra quella cifra bisognerà pagare non più in contanti. Ma, dice Visco, non è abbastanza. La si applica a importi troppo alti, basterà fare come la cricca, più assegni da 5.000 euro. Sapete che Visco è fautore del voler fare la tracciabilità sopra i 100 euro. Questo voleva. Insomma, un Visco critico sulla manovra. In primo piano. Il fisco sulle tracce dei pagamenti. Questa è pagina 3 del Sole 24 Ore. Come detto, il Sole 24 Ore del lunedì analizza intanto quelli che sono gli effetti della manovra, i primi effetti concreti. A pagina 3 c'è appunto tutto sulla tracciabilità dei pagamenti, quella che citava anche Visco e voleva più bassa, addirittura sui 100 euro, che è stata abbassata dai 12.000 ai 5.000 euro. Il fisco sulle tracce dei pagamenti. Operazioni telematiche e monitoraggio consentiranno di rilevare eventuali anomalie, mentre a pagina 2 del Sole 24 Ore c'è un'interessante analisi su una notizia che già il Sole per prima da tempo aveva tirato fuori e che ora è entrata nella manovra, vale a dire la regolarizzazione. L'opposizione dice un condono mascherato di che cosa? Di circa 2 milioni di edifici fantasma. Io tutte le volte la cito perché mi sembra una roba incredibile. 2 milioni di edifici fantasma che non risultavano al catasto e l'Agenzia del Territorio li ha scovati come? Tra l'altro con sistemi molto semplici, fotografie dall'alto, per cui sono spuntate verande, cantine, abitazioni. Ce ne sono 600.000 di queste 2 milioni, 600.000, dunque fa un'ottima percentuale, sono solo in Campania e in Sicilia. 600.000 di queste 2 milioni di case fantasma. Incredibile. Che succederà? La più grande concentrazione è in provincia di Avellino. Un caso ogni tre famiglie, cioè un caso ogni tre famiglie. Ogni tre famiglie ce n'è una che ha una casa fantasma. Questo in provincia di Avellino. Casa oppure veranda, terrazzo, una parte di casa, un box, qualcosa. Insomma, una costruzione non dichiarata al catasto. E vabbè, come il tema di apertura che abbiamo sentito anche in GR, il tema di apertura del Sole di oggi è come la manovra influirà sui dipendenti pubblici. Gianni Trovati ne parla a pagina 5, la cura dimagrante per i dipendenti pubblici. Qui il concetto è quello del turnover, vale a dire per 5 persone che vanno in pensione nella pubblica amministrazione se ne potrà assumere una, e quindi nel giro di qualche anno si scenderà da 3,3 milioni di dipendenti pubblici a 2,9 milioni di dipendenti pubblici, un drastico calo di 400.000 posti in meno, 400.000 posti in meno nei prossimi anni, e che questo ovviamente andrà a incidere positivamente sui conti pubblici. Il giornale oggi insiste invece su cosa? Le commissioni. Ce la sapete che ormai è ripartita questa lotta alla casta. Ormai ognuno identifica tutto quello. Le auto blu da tagliare, i parlamentari. Il giornale sta facendo una cosa non nuova, sta ripubblicando, cosa che fece l'Espresso in prima volta, l'elenco di tutte le pensioni che paghiamo ai deputati. Oggi sono arrivati al terzo giorno di pubblicazione della lista, di quanto, di tutto nome e cognome e quanto prendono in pensione. Oggi ce l'hanno contro le commissioni, la grande abbuffata delle commissioni, pagina 7, il giornale. Per esempio in Regione Molise ci sono 12 organi di studio anche sull'influenza suina, l'influenza H1N1, quella che non ha tanto influenzato fortunatamente. La grande abbuffata delle commissioni, mentre Repubblica torna su un altro tema, quello dei multi incarico dei deputati. Ci sono 11, questa è una cosa che mi ha sempre interessato, anche in passato. Ci sono attualmente al Parlamento 11 deputati che violano palesemente la Costituzione, perché sono, oltre che deputati, anche consiglieri regionali. Ci sono state le regionali. Per esempio il ministro Carfagna, che è deputato e anche consigliere regionale in Campania. La Mussolini, che è onorevole e consigliere regionale della Campania. Il deputato leghista Buonanno, che tra l'altro sarà nostro ospite alle 8.30 per parlare dei pedaggi autostradali, perché siede in Commissione Trasporti. Il nostro sondaggio è i pedaggi autostradali, la Salerno-Reggio Calabria. E vi chiediamo se secondo voi debba essere a pagamento anche la Salerno-Reggio Calabria. Ci sarà anche il deputato Buonanno, le chiederò di questa vicenda. È deputato e anche consigliere regionale, è anche sindaco, è anche vice sindaco, incredibile. Quattro, è sindaco da una parte, vice sindaco da un'altra, ed è deputato ed è consigliere regionale. Come il presidente Cota del Piemonte, ma voglio dire, ci sono delle cariche compatibili come sindaco e deputato in alcuni casi, altre no. Cioè il deputato e il consigliere regionale è una cosa incompatibile per Costituzione, eppure per il momento continuano ad essere così. Dovranno decidere, ma per il momento mantengono questa doppia carica. Siamo alle segnalazioni conclusive perché c'è poco tempo. Allora, c'è molto della tragedia, trovate su tutti i giornali, e anche una sorta di pseudo apertura in prima pagina della Stampa e poi pagina 2-3 della marea nera, cioè quello che sta cercando di fare Obama e non ce la fa Obama per affrontare questo disastro ambientale definito il più grave della storia per il petrolio che continua a fuoriuscire dalla piattaforma sotterranea della BP. Vi segnalo anche in conclusione, per la prima volta parla a pagina 5 del secolo XIX Vincenzo Canterini. È il comandante della celere che fece il sanguinoso blitz nella scuola Diaz al G8 di Genova. Diaz, l'ho sempre detto, gli ordini arrivavano dall'alto. Il comandante Canterini parla per la prima volta in tutti questi anni a Marco Menduni sul secolo XIX. Dice: l'ordine partì dall'allora vice capo della polizia Arnaldo La Barbera, che lui non nomina mai, dice per ora, che peraltro è scomparso, è morto La Barbera, io non lo nomino mai, ma insomma partì da lui, era lui l'interlocutore, io sono il capro espiatorio di una situazione che è stata gestita dall'alto. Canterini hanno cercato di scaricare tutto su di me, è interessante se non fosse altro perché appunto parla per la prima volta da quegli anni, dal 2001. Un esponente della polizia di così alto grado sulla vicenda Diaz. Alle 8 e 18 minuti eccoci nuovamente in diretta con 24 Mattino, è il momento di Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci qui. Buongiorno, come va col fuso orario? Benissimo. Che il tuo viaggio in avanti di un mese? Ah, perché ho detto che è il 31 giugno. Magari. Potrebbe essere anche un po' più caldo. Vabbè, ieri è andata anche bene, va. Però. Poi non so neanche se è possibile. 3 giugno è di quelli che ne ha 30. 30 di conta novembre con aprile, giugno e settembre. Ah, quindi 30, ti sei pure doppiamente sbagliato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, inizia una nuova settimana. Sarà una settimana che possiamo definire quasi a tema, dato che abbiamo deciso di affrontare punto per punto le varie misure introdotte dalla manovra finanziaria. Lo faremo soprattutto a Salvadanaio. Già oggi anticipo che parleremo di pensioni, della cosiddetta nuova finestra di scorrimento. Domani affronteremo il tema delle pensioni di invalidità, perché c'è uno speciale del Sole 24 Ore pubblicato oggi che andremo appunto ad analizzare anche noi. Oggi invece di che cosa parliamo a Soldi e dintorni? Parliamo di libretti di risparmio, perché anche questi sono toccati dalla manovra. Per la verità, questo ambito di risparmio di molte famiglie italiane è già stato oggetto di interventi normativi più volte negli ultimi anni. Oggi rifacciamo il punto su quelli che sono invece i nuovi interventi. Stamattina c'è una pagina piuttosto articolata del Sole 24 Ore che si dedica al fisco sulle tracce dei pagamenti, perché la manovra ha reso più rigide le misure per rendere tracciabili appunto diversi tipi di pagamento. Non saranno più possibili, si legge, i pagamenti in contante per importi superiori a 5.000 euro. Tutte le transazioni operate da aziende, professionisti o cittadini dovranno rispettare questa nuova soglia dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La norma interessa anche gli assegni bancari e postali. Anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ai 5.000 euro. Come si traduce tutto questo? Stamattina ci aiuta a capirci qualcosa di più Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, che saluta. Buongiorno Picciolini, bentornato a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno. Sento un uccellino che suonava, oppure non ho capito bene il rumore radio, che era in sottofondo. La radio, ecco. Picciolini, allora, dicevamo, prima di magari commentare questa nuova misura, il tema del libretto di risparmio è stato oggetto più volte negli ultimi anni di interventi normativi. Sì, ci si è mossi sia nell'ammontare, che è sceso, prima era 12.500, poi è sceso a 5.000, poi immediatamente è rialzato a 12.500 e oggi sembra che sia 5.000 o addirittura, ma dovremo leggere la manovra, quelli al portatore dovrebbero essere addirittura abrogati. Ma non solo, perché con la normativa antiriciclaggio ormai entrata in vigore da qualche decennio, comunque anche sui libretti al portatore, ovvero quelli dove non è necessario scrivere di chi è quel libretto, anche lì sono state fatte delle restrizioni. Ad esempio, comunque anche per questo tipo di libretti sono dati i dati identificativi del cliente, per cui la banca comunque sa che quel dato libretto al portatore l'ha aperto Fabio Picciolini. Ecco, lei ci ha già detto sommariamente qual è la differenza fra questi strumenti di risparmio che sono molto diffusi, come dicevo, fra le famiglie italiane. Adesso spiegheremo ancora meglio la differenza fra libretto nominativo e libretto al portatore, anche per dare un criterio, come dire, di azione poi a tutti coloro che ce l'hanno. I numeri di questi prodotti di risparmio fra le famiglie italiane sono enormi e stamattina anche questo lo racconta il Sole 24 Ore a pagina 25. Resiste il fascino dei libretti postali, sono 25.5 milioni, i libretti postali aperti, 30 milioni quelli bancarizzati, uno strumento di risparmio molto diffuso, la giacenza media Picciolini è di 3.600 euro, quindi diciamo che teoricamente la maggior parte di questi non dovrebbe essere toccata dalla nuova normativa per rendere tracciabili i pagamenti della manovra, in sostanza. No, allora quelli nominativi quasi sicuramente no, diciamo, su quel portatore bisognerà vedere appunto cosa dirà il testo definitivo della manovra, immagino domani. Allora, diciamo che il libretto al portatore è la forma più classica e più storica di piccolo risparmio e anche di piccolo utilizzo della banca o della posta. Perché? Perché ad esempio ci si riscuoteva e ci si versava la pensione nei piccoli paesini, per cui dove non era una banca, ecco anche il motivo del successo delle poste, la pensione veniva prelevata e riversata direttamente su un piccolo libretto di risparmio. Non solo, i libretti di risparmio sono tali e tanti, poi nel tempo sono anche cresciuti, per cui c'era anche una diversificazione per questo investimento. Ricordo quello che mio papà fece a me, c'è il libretto di risparmio fino al raggiungimento della maggiore età, per cui era quel piccolo risparmio che si faceva a favore dei figli per fare magari poi per lo studio o per avviare un'attività lavorativa o per qualunque cosa sia. Quindi era un modo per utilizzare, per fare un po' di risparmio, ma allo stesso tempo era l'alternativa al conto corrente, perché una volta il conto corrente, fino a pochissimi anni fa se ci pensiamo bene, era un pochino utilizzato meno di oggi, quindi il libretto di risparmio c'era, si facevano appunto le due cose, il risparmio, dall'altro lato si, quando era necessario si prelevava il denaro per poter, se erano liberi chiaramente, se poi erano liberi e vincolati, anche questo va detto, ovvero liberi si poteva prelevare quando si voleva e vincolati solamente dietro preavviso o alla scadenza del libretto stesso, molti erano ad esempio a 12 mesi o a 24 mesi, quindi era uno strumento molto carino che poi nel tempo è andato un po' desueto, ma che nei tempi anni 50, anni 60, anni 70 ha fatto veramente la fortuna, è stato utile a molte persone. E infatti, no, tra l'altro anche perché lei ha fatto una precisazione importante, alla fine poi il conto corrente ha un'operatività oggi decisamente maggiore di questi strumenti. Certo. Ecco. Certo. Questa manovra, questa misura che porterebbe all'abbassamento delle soglie, appunto, secondo lei che cosa ne pensa in sostanza? Sono utili questi interventi? Ma io sono non favorevole, molto favorevole, infatti rimasi abbastanza stupito che in un momento in cui c'era bisogno di fare una lotta all'evasione fiscale, c'era una lotta al riciclaggio, ricordiamoci che eravamo già nel 2008, quando quindi c'era un discorso anche di terrorismo e dicendo, fu deciso di rialzare la soglia che di fatto non entrò mai in vigore, quella esatto, di 5.000, sì. Quella di 5.000 euro. Quindi sono molto favorevole, non è un fatto di voler penalizzare i commercianti o i piccoli commercianti, è un fatto di civiltà, è un fatto di che secondo me è normalissimo. Pensiamo, noi utilizziamo tutti i giorni le carte di credito e anche per 100 euro siamo tracciati, ma perché non per un assegno o per un libretto di deposito? Quindi tante volte basterebbe un po' più di informazione per far comprendere che certe battaglie sono solamente di principio, ma alla fine non contano. Per rendere il sistema in sostanza un po' più omogeneo. Picciolini, io la ringrazio per essere stato con noi, in ogni caso quello che va precisato è che ancora in sostanza la manovra non è in gazzetta, per cui dobbiamo monitorarla in questi giorni per vedere esattamente che cosa prevederà su questi strumenti di risparmio. Intanto abbiamo un po', come dire, drizzato le antenne ai nostri ascoltatori. Buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie. Buona giornata, Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. E io l'ho già anticipato, Alessandro, oggi mi pensione. Rioccupo di pensioni, di tutte le novità di questa manovra. La nuova finestra di scorrimento. Ciao. Allora, le 8:32 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Parliamo del Salerno-Reggio Calabria, ma non solo, di pedaggi autostradali che nella manovra potrebbero, è previsto, potrebbero essere aumentati a partire da luglio, e soprattutto il tema annoso, o meglio, che da decenni c'è in Italia, la possibilità che ci sia un pedaggio anche sulla Salerno-Reggio Calabria. Il nostro sondaggio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Sì, allora, la Salerno-Reggio Calabria che il procuratore Pietro Grasso, come ricordava di recente il quotidiano Calabria Ora, ha definito il corpo di reato più lungo d'Italia. Ogni tanto esce e spunta questa ipotesi, quella del mettere il pedaggio anche sulla Salerno-Reggio Calabria, ma non solo, anche su tante altre tratte autostradali, per esempio il grande raccordo anulare, anche questo a Roma è un grande tema dibattuto, se mettere o no il pedaggio. Siete d'accordo? Dovete votare su radio24.it, devo dire che però la maggioranza è d'accordo, un 67%. Chi è contrario, credo, sia il professor Alessandro Bianchi, che è stato ministro dei trasporti del governo Prodi. Buongiorno, professor Bianchi. Buongiorno a lei, buongiorno. Che ne pensa mettere un pedaggio? Se n'era pensato anche, credo, nel vostro governo, credo Di Pietro aveva detto una volta a Ballarò, stiamo pensando di mettere questo, poi subissato da una serie di critiche non se ne fece nulla. No, non è improbabile che sia stato subissato una serie di critiche, anche se ho sentito ora, se non ho capito male dal vostro sondaggio, che il 60% sono favorevoli. Sì. Io credo che se qualcuno pensa all'idea di inserire un pedaggio sulla Salerno-Reggio, è perfettamente disinformato su quella che è la condizione nella quale si trova questa strada e nella quale si troverà ancora per molti, molti anni a venire, diciamo da 5 a 10. Cioè, che condizione? Una condizione di lavori non finiti? Una condizione di sostanziale impercorribilità, di sostanziale pericolo continuo per chi è alla guida e fa quelle tratte, di lentezze, di rallentamenti, di continua intersezione con cantieri aperti. C'è una condizione di disagio e, ripeto, poi di pericolo vero. Ho percorso il tratto forse peggiore, quello diciamo della Calabria, soprattutto dell'ultima parte, non più di una settimana fa, e c'era una deviazione per un masso enorme che era caduto in mezzo alla strada, le auto venivano deviate per un percorso di montagna e i camion addirittura sulla Ionica per poter raggiungere Reggio Calabria. Cioè, dice, far pagare per una strada del genere non si può. Beh, io mi ricordo quella sera arrivando mi disse che forse qualcuno avrebbe dovuto darmi dei soldi per aver fatto quel tratto lì, per aver corso quei rischi, per aver impiegato quel tempo. Chiedere di pagare mi sembra veramente un insulto alla ragionevolezza. Avrebbe dovuto essere pagato lei, dice, interessante. Intanto io voglio salutare, la stanno ascoltando, Paolo Uggè, che è presidente dei FAI Conftrasporti, la Federazione Autotrasportatori Italiani. Buongiorno Uggè. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Così come voglio... Ministro, voglio, l'ex ministro, voglio salutare anche un responsabile della Lega che fa parte della Commissione Trasporti della Camera, nel segretario, vale a dire l'onorevole Gianluca Buonanno. Buongiorno, buonanno. Buongiorno a voi. Senta, poi dopo ci arriviamo, ma non me lo brucia adesso il tema, perché io la dovrei presentare come deputato della Lega Nord, sindaco di Varallo Sesia, vice sindaco di Borgo Sesia e consigliere regionale in Piemonte. Qualcosa, oggi lei su Repubblica viene anche citato come uno degli 11 che non sceglie, insomma, non sceglie per il momento e si tiene un po' di poltrone, ma tra poco ci arriviamo. Prima Uggè, ha sentito Bianchi a dire avrei dovuto essere, la sensazione era quella che avrei dovuto essere pagato io per essermi messo su questa strada, è un insulto chiedere dei soldi, che ne pensi? Ma io non credo che sia un insulto, ricordo che quando si dovette fare il traforo del Monte Bianco un po' di anni fa, venne realizzato proprio attraverso il contributo pagato dalle imprese di autotrasporto che pagavano già allora un pedaggio per consentire di trovare le risorse necessarie. Ora io non credo, certo si tratta poi di vedere come viene fatta la manovra, che tipo di pedaggio si impone, ma il principio deve essere quello che se si paga da una parte d'Italia si deve pagare tutte le altre parti. Ora non è pensabile immaginare che il governo in una situazione del genere possa sopportare esclusivamente e far pagare poi attraverso l'imposizione fiscale tutti gli altri cittadini, quelli che invece sono le conseguenze di scelte di coloro che utilizzano l'infrastruttura stradale. Quindi al di là del fatto che quando ci sono eventi, il ministro lo sa benissimo perché lui stesso fece un provvedimento nel passato per evitare ai camion di pagare i costi di un allungamento del pedaggio, trovò la soluzione attraverso anche un trasporto marittimo. Voglio dire, al di là dell'episodio, io credo che la scelta di chiedere un contributo, perché in una situazione economica attuale, se non pigliamo le risorse, noi non riusciamo più a finire le opere. Noi abbiamo la necessità di strutturare il paese con infrastrutture, cioè, dice, necessarie. Mettere il pedaggio per finire le opere, visto che questa Salerno-Reggio Calabria non si finisce mai, pare che la scadenza del 2013 già non verrà rispettata, quindi far pagare gli italiani per o con un pedaggio anche per contribuire alla conclusione dell'opera. E mi sembra che sia una scelta che è stata fatta anche in altri paesi e che noi, soprattutto di fronte alle condizioni in cui ci troviamo, da un lato abbiamo la necessità di dare una risposta alla mobilità delle merci, delle persone, e quindi se vogliamo usufruire delle opportunità che arriveranno con tutte le merci che si prevede entreranno nel canale di Suez, troveranno, ci auguriamo, dei porti accoglienti e collegati sia con la ferrovia che con la strada, avremo la possibilità di rendere competitivo il paese. Per far questo dobbiamo fare in fretta, le risorse non ci sono, beh, un piccolo sacrificio agli italiani. Interessante, tra l'altro, vorrei andare appunto all'onorevole Buonanno, perché guardi, onorevole Buonanno, molti ascoltatori ci dicono, Maurizio da Torino per esempio ci scrive, perché quando la Torino Savona non era un'autostrada noi l'abbiamo sempre pagata? Oppure alcuni dicono, perché al nord paghiamo le autostrade, la Salerno Reggio Calabria non è un'autostrada anche come definizione, però perché noi paghiamo e loro no? È una posizione che le piace, insomma, una posizione di contrapposizione, meglio, che le piace? Direi proprio di sì, cioè non capisco perché da sempre al sud non si debba pagare niente. Insomma, se io vado in una superstrada qualsiasi del nord Italia pago, sulla tangenziale di Milano pago, perché non deve essere pagato nulla a Roma piuttosto che a Salerno Reggio Calabria? Tra l'altro la Salerno Reggio Calabria, da come era definita l'ex ministro, io concordo con lui che è un disastro, ma quanti miliardi di euro sono stati messi in quella strada? C'è la vergogna che il sud non è capace neanche con delle stratosferiche cifre a fare le cose normali. E io una settimana fa sono inorridito al pensiero che dopo 102 anni diamo ancora i soldi per il terremoto in Sicilia. 102 anni diamo ancora milioni di euro per il terremoto in Sicilia. Cioè, il problema del sud non è il sud di per sé che è bellissimo, è di una classe dirigente che è da rottamare. Speriamo che cambi, ma non è colpa dei cittadini, è colpa di una classe dirigente. La classe dirigente non la fa la Salerno Reggio Calabria, non la fa la classe dirigente, le dice. Cioè, ho capito, ma dopo tutti questi anni, se non sono stati capaci di fare no col bicchiere, non è mica colpa nostra. Però non è che possiamo sempre regalare, cioè la mucca, il latte, l'ha finito, non è che possono sempre mungere da chi produce. Cioè, se non sono abituati a pagare, si dovranno fare, diciamo così. Ho capito, ma perché dovrebbe pagare anche se la fa lei, la Salerno Reggio Calabria pagherebbe anche lei? Cioè, perché se la classe dirigente non è all'altezza, far pagare chi gli utenti, che poi sono anche, possono essere svedesi, tedeschi. È giusto, pagano . E almeno ci sono dei soldi per poter investire in nuove opere. Invece qui alla fine dobbiamo sempre regalare tutto, dobbiamo sempre ripianare i debiti come pantalone sulle città o sulle regioni che non sono capaci di gestirsi. Questa gente qua non deve neanche più essere candidata. Vediamo su questo Bianchi risponda, su questo, insomma, sia da chi ci ha messo le mani, voglio dire, da ministro, a chi, insomma, anche da uomo che vive a Roma, ma uomo del sud, no? C'è Buonanno che fa questo tipo di attacco, dice non è capace di far nulla la classe dirigente, almeno si paghi. Dunque, intanto vorrei far presente che l'autostrada non la costruisce non solo la classe dirigente o le genti del sud, ma neanche le amministrazioni del sud, non c'entrano le regioni, le province, i comuni. La strada la costruisce l'ANAS con dei soldi che vengono stanziati dallo Stato, in genere deliberati in sede CIPE. Semmai, se va cercato un responsabile, sarei molto d'accordo su questo. È la maniera, direi, indecente con cui l'ANAS ha gestito questa operazione negli anni, a partire dal lontano 1997, quando si decise di adeguare la Salerno-Reggio Calabria. E vengo al secondo argomento. È giusto dire che se si paga da una parte si deve pagare anche dall'altra, ammesso che il servizio sia lo stesso. Cioè, io non posso pretendere di andare in prima classe col biglietto di terza, adesso non c'è più la terza. Sì. Ho bisogno di... Allora, io vorrei ricordare che fin da quando fu ultimata la Salerno-Reggio Calabria, ossia nel 74, si trattava non già di un'autostrada con le caratteristiche che ha per esempio la Roma-Milano, ma di una strada, due corsie senza, sottolineo, senza corsia di emergenza. Quello che si sta facendo da ormai 13 anni a questa parte, o che non si sta facendo, è semplicemente l'aggiunta della corsia di emergenza. Quando tutto questo bailam dovesse finire, non so quando mai finirà, noi non avremo la stessa autostrada Roma-Milano, avremo una strada molto diversa che abbiamo leggermente allargato mettendo la corsia di sicurezza, il che mi sembra il minimo che si possa fare, diciamo, in un paese. Però Bianchi, quello che Buonanno, insomma, la contestazione che faceva, che l'ANAS costruisce in tutta Italia, perché al nord si fanno le strade, per lì invece quel contesto che il procuratore Grasso ha detto detto è il più grande, il più lungo corpo di reato d'Italia, insomma anche il contesto territoriale avrà qualche significato, no? Sì, tanto a dire, è vero che l'ANAS costruisce ovunque, insisto a dire che quando costruisce al sud è la stessa ANAS di quando costruisce al nord, quindi non c'entrano né i cittadini meridionali né la classe dirigente meridionale, che si è detto per inciso non ho nessuna fantasia di difendere, credo che sia la lacuna più grave in questo momento del Mezzogiorno non avere una classe dirigente all'altezza dei problemi che deve affrontare, ma non c'entra, l'ANAS si sta comportando in una maniera vergognosa. Vabbè, qua però l'ANAS non c'è a replicarle, Bianchi, non mi metta in difficoltà, no, tanto per il contraddittorio, l'ha già detto, insomma questa è la sua posizione, però non c'è il rappresentante dell'ANAS a difendersi, insomma. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, il 68% venendo su Radio24.it dice sì, va bene il pedaggio. Vediamo un paio di ascoltatori all'800240024. Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io sono nato a Reggio Calabria e sono legato sentimentalmente a questa, diciamo, autostrada. Sì. Sentimentalmente, che vuol dire? Sì. Perché ci ha passato degli anni andandoci. Guardi, fino al 67 sono vissuto a Reggio e sono nato proprio alla fine, diciamo, del percorso autostradale. Che dice? Un bel pedaggio lo metterebbe? Guardi, io pur di vederla sistemata, se questo dovesse bastare, sarei disposto anche a pagare un pedaggio. Mm. Cioè l'idea appunto di finanziare l'opera, no? Il pedaggio per finanziare l'opera. Vediamo se... Ma onorevole Buonanno, questa idea è finanziare pedaggio per finanziare l'opera o pedaggio per fare cassa in questo momento di difficoltà? Io sono d'accordo con l'ex ministro sul fatto che è una strada ovviamente che non è di prima classe, chiamiamola così. Però se la prima classe costasse, faccio un'ipotesi, 4 euro... facciamola pagare 2 euro, cioè quello che conta, uno è che incominciano a capire che le cose bisogna pagarle, che non è tutto gratis, secondo che si possa finanziare per concludere l'opera, perché altrimenti o perché non ci sono i soldi, però anche lì il fatto purtroppo brutto del nostro paese, purtroppo anche in una certa parte d'Italia, è che non è vero che lì i soldi non sono mai arrivati, ne sono arrivati fin troppo. Scusi, ma onorevole, che comincino a pagare a chi si riferisce? Che capiscano che bisogna cominciare a pagare con chi ce l'ha? Il sud, cioè non è che tutto è dovuto, cioè devono anche capire che le cose si pagano, cioè qui arrivano, ma in tutti i settori. Le faccio un esempio stupido che ho visto l'altro giorno al sud. Io vado molto spesso, ogni anno anzi, nella zona della costiera amalfitana e faccio una strada che è, diciamo così, il biglietto da visita per arrivare alla costiera, che è il valico di Chiunzi, diciamo, una strada dove in ogni insenatura, cioè praticamente in ogni curva, c'è una discarica, materassi, immondizie, eccetera. Cioè basterebbe un giorno di lavoro per pulire queste cose. Io passo ogni anno e ogni anno è uno schifo. Sempre peggio. Il sud, quando lei dice il sud, dove lo mettiamo il confine ipotetico del sud? Il sud è praticamente da Roma in giù. Cioè, ma non che ce l'ho con loro, ma ci mancherebbe altro. Io, cioè, sono tra l'altro anche un po' meridionale e sono anche contento di esserlo, però bisogna cambiare la mentalità. Ma l'altro giorno facevano vedere alla televisione che in Sicilia, che non c'entra niente con questo, ci sono 240 antumbulanze, ma sopra non ci sono i medici, però le fanno perché devono trovare lavoro. Ma c'è delle cose che non hanno senso. C'è un ospedale in Calabria che ha 15 degenti e più di 100 medici, cioè piantiamola, cioè questo paese così non va da nessuna parte, anzi sprofonda. Sentiamo un ascoltatore, Giorgio da Torino, poi andiamo anche da Uge. Giorgio da Torino, buongiorno. Che dice? Giorgio. Sì, buongiorno. Lei che dice? Sì, buongiorno. Niente, che io ieri praticamente sono passato da Milano a Torino, c'era l'autostrada completamente disastrata che non si poteva camminare, però l'ho pagata lo stesso. Quindi è giusto che le autostrade, se ci sono, devono essere pagate. Sì, ma la Salerno-Reggio Calabria non è un'autostrada. Cioè io ricordo, non so, Uge, mi aiuti in questo, quando ho fatto la patente, no? Tratto di strada delimitato da due caselli, no? Così si può definire un'autostrada, no? I caselli sulla Salerno-Reggio Calabria non ci sono, ecco, quindi già non è un'autostrada in senso stretto. Però lei insiste su questo punto, va pagato, nonostante il servizio, nonostante sia pessima nonostante che abbiamo detto. Ma io credo che il principio sia semplice, pur prevedendo delle differenziazioni, diceva bene l'onorevole Bonanno, facciamo la differenziazione che c'è tra la prima classe e il costo del biglietto in seconda classe, per l'amor di Dio, prevediamo che se ci sono delle deviazioni quel tratto non venga soggettato a pagamento, le soluzioni si trovano, mettiamo dei tempi, cioè l'ANAS deve essere costretta a rendere conto allo Stato, perché poi è lo Stato che gli trasferisce questi fondi, evidentemente come procede l'opera, per quali motivi le opere non rispettano i tempi che sono stati assegnati. Io ricordo che tanti anni fa vennero suddivisi in 5 grandi maxi lotti per cercare di dare un'accelerazione alla realizzazione. Ma le risulta un'opera in Italia che rispetti i tempi? No. Ci sono nel mondo esempi dove i tempi vengono rispettati, nel mondo, e addirittura. Se non viene consegnata l'opera nei tempi previsti ci sono delle penali, cominciamo ad abituarci ad essere europei se non almeno da cittadini del mondo. Sentiamo Gianni dalla provincia di Milano, buongiorno. È caduta la linea. Allora, onorevole Bonanno, vorrei arrivare un attimo a lei, insomma l'ho tenuto in sospesa, ma voglio dire, lei ha detto tante cose, anche il nord, il sud, sprechi eccetera. Allora, sulla questione sprechi manovra, perché lei è tra gli 11 deputati cosiddetti multi incarico, cioè come ha detto lei è sindaco, peraltro è anche sindaco di un paese e vice sindaco di un altro paese, questo è un caso più unico che raro, però vabbè. È anche deputato e consigliere regionale, è una cosa in palese violazione della Costituzione. Lo sa che la Costituzione italiana dice che non si può essere deputato e consigliere regionale, così come il suo presidente Cota, l'onorevole Mussolini, il ministro Carfagna. Come la mettiamo anche con questi vari stipendi che prende? No, allora, la prima cosa da dire è che io non prendo 4 stipendi, ne prendo uno e basta, per cui sono anni che faccio il sindaco gratuitamente, ne sono contento. Cioè il deputato lo prende? Deputato. Certo, e basta. E consigliere regionale no? No. E come mai? E come mai? Perché c'è incompatibilità ed è giusto che sia così. Ho firmato una carta in cui... C'è incompatibilità di carica, ma finché rimane lo stipendio gli arriverà. No, assolutamente. Cioè lei non prende il consiglio regionale, non dà soldi a nessuno per la sua posizione? Mi sembra un po' strano. A me no, poi li daranno agli altri, ma non a me. Io non prendo assolutamente nulla dalla regione Piemonte. E tra l'altro questa settimana mi dimetto, cioè... Sapevo anch'io che era incompatibile la carica. Io ho corso alla Regione Piemonte, sono stato più votato della provincia di Vercelli, quindi evidentemente qualcosa di buono faccio sul territorio, perché ho cercato di aiutare, sono contento di averlo fatto, il governatore attuale Cota, quindi è un mio amico, mi sono tra virgolette dato da fare per cercare di aiutarlo. Si dimette da dove? Cioè si dimette dal Parlamento? Dalla regione. Quindi, però guardi, onorevole, mi sembra un pochino strano che la regione non le corrisponda allo stipendio. Non è strano, è la verità. Però io ho scritto un documento. Cioè, forse lei potrà darlo in beneficenza. Assolutamente. Non prendo un centesimo. Non prendo un centesimo della regione. Assolutamente no. E quindi in questo caso, comunque, lei dice: non c'è. Che segnale è? Non è un brutto segnale, comunque, quello di stare in 4 poltrone anche se con uno stipendio. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è questa, questo non per vanto ma per dirlo a chi ci ascolta, se io sono sindaco da quasi 18 anni e il sindaco l'ho eletto direttamente, adesso sono a Varallo, l'ultima volta mi hanno riconfermato con l'81%, un motivo ci sarà. Sì, questo sì. Vinco con una lista dove c'è il mio nome nel comune, nella città di Borgosesia, contro tutti, evidentemente un motivo ci sarà. Se alle elezioni regionali 2 mesi fa comunque vengo eletto come il più votato della provincia di Vercelli, dove io risiedo, probabilmente un motivo ci sarà. Dopodiché la gente, che certamente non è stupida, fa le sue valutazioni. Io comunque giustamente rispetterò la legge e questa settimana mi dimetterò da consigliere regionale, ma naturalmente continuerò a collaborare con il governatore Cotta, perché secondo me il Piemonte ha bisogno di un cambiamento. No, ma le collaborazioni si possono fare, però ecco, questo si dimetta, anche perché la Costituzione parla chiaro. Io mi devo fermare, 8:55 minuti, grazie anche a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, ringrazio tutti i partecipanti. Allora, ricordo Oscar Giannino, tra poco si occuperà di riforma fiscale. A lui la linea, mentre noi potete scriverci bianco o nero @radio24.it. A domattina.